Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il Commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Qualche giorno dopo Natale, una sera di luna piena, Frank, con l'abito nuovo addosso, si avviò in fretta alla biblioteca distante una dozzina di isolati dal negozio. La biblioteca era un ex negozio ampliato e ben illuminato, con gli scaffali zeppi di libri che davano un senso di tepore nelle sere d'inverno. Nel retro c'erano alcuni grandi tavoli di lettura. Era un posto piacevole per ripararsi dal freddo. Aveva indovinato, giacché di lì a poco giunse Helen. Aveva in testa una sciarpa di lana rossa con un lembo che ricadeva su una spalla. Lui sedeva a un tavolo e leggeva. Chiudendo la porta, Helen lo notò e lui se ne accorse. Si erano già incontrati qui per qualche istante. Helen si era chiesta cosa leggesse Frank e una volta, passando, aveva sbirciato rapidamente sopra la sua spalla. Credeva che fosse qualche manuale di meccanica spiegata al popolo. Invece era una biografia. Stasera, come al solito, avvertiva il suo sguardo che la seguiva mentre andava da uno scaffale all'altro. Quando uscì un'ora dopo, intercettò un'occhiata rivoltale di soppiatto. Frank si alzò e prese in prestito un libro. Era già arrivata a metà strada quando lui la raggiunse. Luna piena, alzò la mano per salutare toccandosi il cappello e scoprì con imbarazzo di non averlo. «Sembra che voglia nevicare», rispose Helen. Le lanciò un'occhiata per vedere se scherzava. Poi guardò il cielo. Era senza nubi, inondato di luce lunare. Forse, mentre stavano per raggiungere l'angolo, Frank disse: «Potremmo fare un giro nel parco, se le va». Lei accolse la proposta con un brivido, girò l'angolo con un riso nervoso e gli camminò al fianco. Non gli aveva detto quasi più nulla dalla sera in cui lui l'aveva chiamata per rispondere al telefono muto. Chi era stato non lo avrebbe mai saputo. L'incidente la lasciava ancora perplessa. Helen provava nei suoi confronti mentre camminavano un'irritazione che quasi sconfinava con un sentimento peggiore. Sapeva da che cosa era originata. Sua madre, che faceva di ogni non ebreo un essere pericoloso per definizione. Perciò lei e lui assieme rappresentavano qualcosa di potenzialmente funesto. Era anche seccata di aver sempre addosso i suoi occhi avidi. Sentiva che lui vedeva più addentro di quanto rivelasse il suo sguardo, che di tanto in tanto riusciva a cogliere. Cercò di combattere l'avversione per lui dicendosi che non era colpa sua se sua madre ne aveva fatto un nemico. Se la guardava sempre, significava almeno che vedeva in lei qualcosa di attraente, altrimenti perché l'avrebbe guardata? Considerando la propria solitudine, doveva essergliene grata. La sensazione sgradevole passò ed Helen lo sbirciò guardinga. Egli camminava libero nel chiarore lunare, ignaro della sua reazione. Allora sentì, questo pensiero le era già venuto altre volte, che ci poteva essere in lui più di quanto avesse immaginato. Provò vergogna di non averlo mai ringraziato per l'aiuto che aveva dato a suo padre. Nel parco la luna era più piccola, girovagante nel cielo chiaro. Lui parlava dell'inverno. «È strano che abbia accennato alla neve prima», disse Frank. «In biblioteca leggevo La vita di San Francesco e menzionando la neve mi ha fatto pensare alla storia di quando lui si sveglia una notte d'inverno e si domanda se ha fatto bene a farsi frate. Dio, pensò, se avessi incontrato una bella ragazza e l'avessi sposata e a quest'ora avessi moglie e bambini. Questo pensiero lo faceva stare tanto male che non riusciva a dormire. Si alzò dal suo giaciglio di paglia e uscì dalla chiesa o dal monastero o dovunque si trovava. La terra era ancora coperta di neve. Francesco fece una donna di neve e disse: «Ecco, questa è mia moglie». Poi con la neve fece due o tre bambini. Dopo li baciò tutti, tornò dentro e si sdraiò sulla paglia. Si sentì infinitamente meglio e si addormentò subito. La storia la meravigliò e la commosse. L'ha appena letta? No, me la ricordo da quando ero bambino. Ne ho la testa piena di queste storie. Non mi chieda perché. Un prete le leggeva agli orfani in quell'istituto dove sono stato e mi accorgo di non averle mai dimenticate. Mi tornano in mente senza nessun motivo. Frank era stato a farsi tagliare i capelli e con gli abiti nuovi era difficile riconoscere in lui lo sbracato commesso di suo padre che aveva dormito per una settimana in cantina. Stasera le sembrava uno mai visto prima. Mostrava gusto nel vestirsi ed era a suo modo interessante. Senza grembiule sembrava più giovane. Passarono accanto a una panchina vuota. «Che ne dice di sedersi?» disse Frank. «Preferirei camminare. Fuma?» «No». Si fermò ad accendere una sigaretta, poi la raggiunse. «È una bella sera, sul serio». «Volevo ringraziarla per aver aiutato mio padre», disse Helen. «È stato molto gentile. Avrei dovuto farlo prima. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Suo padre mi ha fatto dei favori». Si sentì a disagio. «Comunque, non si metta negli alimentari», disse. «È un mestiere senza avvenire». Frank emise una boccata di fumo con un sorriso sulle labbra. «Tutti mi mettono in guardia. Non si preoccupi. Ho troppa immaginazione per restare bloccato in un negozio. È solo un lavoro temporaneo». «Non è quello che fa di solito?» «No», si propose di essere onesto. «Sto, per così dire, prendendo fiato. Ho cominciato male e devo cambiare strada. Le cose sono poi andate in modo che sono capitato nel negozio di suo padre. Ma ci resterò solo fino a quando non avrò preso una decisione su quel che farò». Ricordò la confessione che aveva meditato di farle, ma non era ancora venuto il momento. Si poteva fare una confessione da estraneo e la si poteva fare da amico. «Ho provato un po' di tutto», disse. «Ora devo scegliere una cosa e impegnarmici. Sono stanco di essere sempre allo sbaraglio. Non è un po' tardi per cominciare? Ho 25 anni. Molti cominciano a quest'età e ho letto di alcuni che hanno cominciato anche più tardi. L'età non significa nulla. Non ti rende meno capace di chiunque altro». «Non ho mai detto questo». Si fermò alla prima panchina vuota. «Possiamo sederci qui per un minuto, se vuole». «Certo». Frank asciugò il sedile col fazzoletto prima che lei si sedesse. Le offrì le sue sigarette. «Le ho detto che non fumo». «Mi scusi, credevo che non volesse fumare mentre camminava. A certe ragazze non va di farlo». Mise via il pacchetto. Helen notò il libro che Frank aveva con sé. «Che cosa sta leggendo?» Glielo mostrò. «La vita di Napoleone?» «Già». «Perché proprio Napoleone?» «Perché no? Non era un grand'uomo? Altri lo sono stati in modi migliori. Leggerò anche di loro», disse Frank. «Legge molto?» «Certo, sono curioso. Mi piace sapere perché la gente si dà da fare. Mi piace scoprire il motivo per cui fanno le cose che fanno. Non so se mi spiego». Lei disse di sì. Lui le chiese che libro stesse leggendo. L'idiota. Lo conosce? No. Che roba è? È un romanzo. Preferisco leggere la verità. È la verità, disse Helen. Poi chiese, ha terminato le superiori? Rise. Certo, l'istruzione è gratuita in questo paese. Lei arrossì. Era una domanda sciocca. Non era una battuta di spirito, disse lui rapidamente. Non l'ho presa come tale. Sono andato a scuola in 3 stati diversi e finalmente ho preso il diploma in una scuola serale. Avevo in progetto di andare al college, ma mi capitò questo lavoro che non potevo rifiutare. Sicché cambiai idea, ma fu un errore. Io dovevo aiutare mio padre e mia madre, disse Helen. Così non ho potuto andarci neanch'io. Ho seguito dei corsi serali alla New York University, per lo più di letteratura. In tutto ho messo insieme circa 1 anno di frequenza, ma è molto duro di sera. Il lavoro che faccio non mi soddisfa. Mi piacerebbe ancora poter frequentare a tempo pieno di giorno. Egli buttò il mozzicone. Ultimamente ho pensato di iscrivermi all'università, anche se ho già 25 anni. So di uno che lo ha fatto. Ci andrebbe di sera? Chiese lei. Forse. O forse di giorno, se potessi trovare un lavoro adatto. In un ristorante che faccia servizio di notte, per esempio, o qualcosa del genere. Quel tale di cui parlavo ha fatto così. Aiuto del direttore o giù di lì. In 5 o 6 anni si è laureato in ingegneria. Adesso si fa i suoi bravi quattrini, lavorando un po' dappertutto. È dura farla così, molto dura. Le ore pesano, ma ci si fa l'abitudine. Quando si ha qualcosa da fare che valga la pena, dormire è una perdita di tempo. Ci vogliono anni frequentando di sera. Il tempo non conta per me. Per me sì. Per come la vedo io, tutto è possibile. Penso sempre alle diverse possibilità che ho. C'è un principio che mi si è impresso in mente. Non farti intrappolare da una cosa perché forse puoi fare qualcos'altro di molto meglio. Credo sia il motivo per cui non mi sono ancora sistemato. Mi sono guardato intorno. Ho ancora alcune eccellenti ambizioni che mi piacerebbe vedere realizzate. Il primo passo per riuscirci, adesso lo so di certo, è avere una buona istruzione. Non la pensavo così prima, ma più vado avanti, più ci credo. Ora è un pensiero che ho sempre in mente. Io l'ho sempre pensata così, disse Helen. Egli accese un'altra sigaretta buttando il fiammifero spento. Che lavoro fa? La segretaria. Le piace? Fumava con gli occhi socchiusi. Helen intuì che Frank sapeva che il suo lavoro non le piaceva e sospettò che lo avesse sentito dire da suo padre e da sua madre. Dopo un poco rispose, «No, non mi piace. È sempre quello. E vivrei contenta senza vedere certi tipi con cui ho a che fare tutto il giorno, i piazzisti, voglio dire. Fanno i villani? Chiacchierano molto. Mi piacerebbe fare qualcosa che mi desse la sensazione di essere utile, qualcosa in campo sociale o forse l'insegnamento. Quello che faccio ora non mi dà nessun senso di compiutezza. Arrivano le 5 e finalmente vado a casa. Credo sia pressapoco l'unica ragione per cui vivo. Parlò della sua routine giornaliera, ma dopo un po' si accorse che Frank l'ascoltava solo a metà. Stava guardando fissamente gli alberi a distanza, immersi nella luce lunare. Il suo viso era teso. Gli occhi accesi erano rivolti altrove. Helen sternutì, si tolse la sciarpa e l'avvolse stretta intorno alla testa. Andiamo? Un momento, finisco solo la sigaretta. Che impudente, lei pensò. Eppure il suo viso, nonostante il naso rotto, nel buio pareva quello di una persona sensibile. Perché sono così irritabile? Si era fatta di lui un'idea sbagliata, ma la colpa era solo sua. Era il risultato dello stare tanto tempo senza frequentare nessuno. Lui trasse un lungo sospiro affannoso. «Qualcosa che non va?» chiese Helen. Frank si schiarì la gola, ma la sua voce era roca. «No, solo qualcosa che mi è saltato in mente mentre guardavo la luna. Sa come sono i pensieri. La natura la induce a pensare? Mi piace guardare la natura. È proprio per questo che cammino molto. Mi piace il cielo di notte, ma se ne vede più nell'ovest. Qui il cielo è troppo lontano. Ci sono troppi grattacieli.» Schiacciò la sigaretta sotto il tallone e si alzò stancamente. Sembrava che avesse detto addio alla propria giovinezza. Helen si alzò incamminandosi con lui, curiosa di lui. La luna sopra di loro si muoveva nel cielo nudo. Dopo una lunga pausa di silenzio, egli disse mentre camminavano: «Vorrei dirle quello a cui stavo pensando. Solo se ne ha voglia, la prego. Mi sento in vena di parlare», disse. «E ricordavo un circo per cui lavorai una volta quando avevo circa 20 anni. Subito, appena avuto il posto, mi innamorai di una ragazza che lavorava in un numero di acrobati. Era fatta un po' come lei, piuttosto snella, direi. Da principio direi che non le andavo. Credevo pensasse che non ero una persona seria. Era un tipo piuttosto complicato, sa, lunatico, con un sacco di problemi che rimuginava solo tra sé. Beh, un giorno parlando mi disse che voleva farsi monaca. Io dissi: «Non credo che sia roba per te». «Che ne sai tu di me?» mi rispose. Non la contraddissi. Benché la gente, io la capisca piuttosto bene, non mi chiede perché. Penso che uno nasca con certe attitudini. Comunque, tutta l'estate ne fui cotto, ma lei non mi degnava più di uno sguardo, benché non andasse con nessun altro. «È per la mia età?» le domandai. «No, ma non hai vissuto», mi rispose. «Se solo potessi vedermi in cuore tutto quello che ho vissuto», dissi. Ma dubito che mi credesse. Parlare così è tutto quello che facemmo. Di tanto in tanto le chiedevo un appuntamento senza sperare di ottenerlo, e non lo tenevo mai. «Lasciala perdere», mi dissi. «È una che pensa solo a sé». Poi, una mattina, arrivava l'autunno e si sentiva nell'aria che la stagione mutava, le dissi che me ne sarei andato alla chiusura dello spettacolo. «Dove andrai?» mi chiese. Le dissi che andavo a cercare una sistemazione migliore. A ciò non rispose nulla. Dissi: «Vuoi ancora farti monaca?» Divenne rossa e guardò da un'altra parte, poi mi rispose che non era più sicura. Avevo notato che era cambiata, ma non ero così sciocco da credere che fosse per causa mia. Invece credo che fosse proprio per quello, perché per caso in quel momento le nostre mani si toccarono e quando vidi come mi guardava mi mancò il respiro. «Dio mio», pensai, «siamo tutti e due innamorati». Le dissi: «Tesoro, trovati qui dopo lo spettacolo stasera e andiamo dove possiamo stare soli». Disse di sì. Prima di andarsene, mi diede un bacio in fretta. Bene, quello stesso pomeriggio se ne andò con la vecchia auto di suo padre a comprare una camicetta che aveva visto in una vetrina nell'ultima città dove ci eravamo fermati, ma al ritorno cominciò a piovere. Che cosa sia successo esattamente non so. Immagino che abbia calcolato male una curva o qualcosa del genere e fece un volo fuori strada. Il macinino rotolò giù per la collina e lei si spezzò l'osso del collo. Finì così. Camminarono in silenzio. Helen era commossa. «Ma perché?» pensò. «Tutta questa musica triste. Mi dispiace tanto. Sono passati molti anni. È stata una cosa tragica. Non potevo aspettarmi di meglio. La vita si rinnova, la mia fortuna non cambia. Insista coi suoi progetti per andare all'università. Sì, certo, disse Frank, è quello che mi resta da fare. I loro occhi si incontrarono e lei sentì un formicolio alla radice dei capelli. Poi uscirono nel parco e si avviarono verso casa. Davanti al negozio buio gli augurò in fretta buonanotte. «Io starò fuori ancora un poco», disse Frank. «Mi piace guardare la luna». Helen salì. A letto pensò alla loro passeggiata, chiedendosi quale peso dovesse dare a quello che le aveva detto sulle sue ambizioni e sui suoi progetti per l'università. Non avrebbe potuto scegliere meglio per farle una buona impressione. E qual era lo scopo del triste racconto della ragazza del circo, fatta un po' come lei? Chi stava paragonando alle sue ragazze da circo? Eppure aveva raccontato la storia in modo semplice, senza alcun tentativo apparente di suscitare la sua simpatia. Probabilmente era un episodio vero che gli era venuto in mente perché si sentiva solo. Anche lei, sotto la luna piena, aveva dovuto fare i conti con i propri ricordi. Pensando a Frank, cercò di vederlo nella giusta luce, ma l'immagine che le si formò era un'immagine che la turbava. Il commesso di negozio dagli occhi cupidi si sovrapponeva al garzone da circo e al futuro serio studente universitario, un uomo ricco di possibilità. Sul punto di addormentarsi, ebbe la sensazione che Frank desiderasse coinvolgerla nella sua vita. L'avversione che aveva provato per lui le ritornò, ma riuscì, senza troppa fatica, a dissiparla. Completamente sveglia ora, le dispiaceva di non poter vedere il cielo dall'apertura nella parete della sua camera e di non poter guardare giù in strada. Chi era la donna che Frank stava facendo sua al chiarore della candida luna?